Ah, positivo, dai, Porto Torres, come mi ascolti di lì con le coordinate, Filippo? La radio chiara, i segnali 8-9. Va bene, dai, non ci lamentiamo, ma sei in macchina o in camion? No, oh, in macchina, Ma che antenna, ma c'è una base magnetica o c'è l'antenna fissa? Una fissa nera, Ehi, a positivo già la conosco, dai. Santiago 5, Radio 4 qua. Monte Rosello, città di Sassari. Ok, va. Mi lascio per un po', ho acceso 5 minuti che sono rientrato. Va bene che va bene, ma mi è sembrato di sentire qualcun altro sotto. Avanti, avanti se c'era qualcuno che voleva entrare. Antonello, Pomponio, ci sei? Avanti, avanti Porto Torres, avanti, si ascolti qua, cambia. Ora, ora. Ehi Antonella, ci sei? Ehi. Sto cercando quel barattino piccolino, non mi ricordo dove l'ho appoggiato, che c'ha la cacca in punta. Questo qua il microfono a tavolo già aperto, c'ha quattro fili e sono gli stessi colori di questo microfono che c'ho originale della President. Io gli ripiatto così, massa giallo, rosso e nero, e sicuramente funziona, però c'è la batteria a zero, c'è la batteria a 9 volt e devo andare a comprare la batteria. Ho capito, aspetta un secondo, sto controllando se c'ho uno spinotto a 6 punte io, aspetta un attimo. Oh Antonio, beh. Aspetta. E c'ho il microfono rebubico, se non mi ricordo male. Aspetta, lo sto cercando, se c'ho il microfono rebubico, che lo trovo, vieni te lo prendi. Oh, ce l'ho Antone, ce l'ho. Ho trovato l'apparecchietto, aspetta un attimino che invece provo ad accenderlo a vedere se è bruciato o meno. Aspetta un attimino, sembra che fa con tutto questo baracchinetto che ce l'ho trovato da mamma, magari funziona, aspetta che l'attacco. Vabbè, intanto ti sto cercando quella bustina, che non se la guarda, non mi ricordo, aspetta, un secondo che l'accendo. Ecco qua, però siccome qua nel mio biglietto non si vede nulla, adesso vado a comprarmi una luce a LED, che l'appiccico sopra, una bella luce a LED. Toga, anzi ci avete visto a collegare questo apparecchio, ora ce ne ho uno qua a LED, ma forse questo è troppo potente. Hai sentito che quello difende. E beh, salve, risolto? Sì, Luca, ho trovato quel barattino piccolino, provato ad accenderlo, non da finire vita. Il microfono si attacca a 6 punti. Quello spinotto lì adesso lo sto utilizzando per il microfono a tavolo, però non c'è batteria. C'è stato portante e non sale lo smitter, lo strumento del coso. Del microfono a tavolo, ho misurato la batteria è a 0 sotto 0, devo andare a comprare una batteria a 9. Vabbè, ma comunque le collegate funziona a posto, va in trasmissione? Non l'ho collegato ancora, se stavo cercando il baracchinetto in sgabuzzino. Baracchinetto che c'era la spinola, lo spinotto a sì, ma l'ho trovato. Adesso l'ho trovato, ho provato ad attaccare all'alimentatore ma non accende. Quindi è un baracchino bruciato, o perlomeno non so, non accende. È nuovo, un plus, cos'è? Midland, no, Intec MB10. Oh, ma inteso, l'appuntamento alle 5.14 dovevo andare a prendere un telefono. Sì, andava, intanto io adesso mi sto collegando la luce a LED qua dentro il mobiletto perché non si vede nulla. E poi devo andare a saldare questi contatti. Adesso mi attacco questo faro, ho un faro a 10 watt a LED. Sono putti negli occhi di VDG. È un faro per vestirmi, ma mi attacca provvisoriamente qua. E da 10 watt fa luce da paura. Ma quello che ti volevo dire io prima, ho capito quello che mi hai detto tu prima, ma quello che ti volevo dire io, aspetta, attacchi lo spinotto e ti fa il collegamento. Anche se non va di radio, lo provi, siamo in trasmissione, anche se sale di portante, fregate se non esci di radio, poi vai e ti compri la batteria. Sì, quello è logico, va bene, oh. Adesso mi devo prima di tutto fare luce qua dentro questo mobiletto, perché non si vede nulla, c'è buio. Adesso attacco, collego questo apparecchio e poi mi faccio le saldature dello spinotto. Dopo quello mi compro la batteria. Tanto sono quattro fili calcati, perciò ti prendi la posizione di quello che stai usando adesso, palmare, e non sbagli. No, sono uguali i fili, sono giallo, massa, nero e rosso. E così sono il microfono a tavolo, oh, ce l'ha sbagliato, è così, fanno così. Ho darsi pure, può anche succedere che magari i fili vengono invertiti all'interno del microfono normale, capito? Cambia posizione. No, qua no, perché i microfoni sono originali, sia il president che il mio da tavolo non è stato mai toccato dentro, non è stato mai aperto il microfono da tavolo dentro. Non sto parlando del microfono da tavolo, sabe? Sto parlando di quello palmare, che molte volte a me è successo, anche se originale il suo, gli avevano spostati i fili di uno, però l'avevano spostati. Esce un po' di testa a cercare la portante, la ricezione, vabbè, questo non ne ha bisogno. Stacco il microfono e si sente uguale. No, anche questo qui ho notato, sta che il microfono essendo lo stesso, capito? No, ma questo microfono qua, presidente, è proprio originale, imbustato, è vergine, non è stato mai usato, lo sto usando io ora. È un microfono nuovo, nuovo, nuovo di pacca, si vede, no, quando è nuovo senza essere usato. E dai, piano piano, passa una volta, dai, poi una volta c'è l'antenna, risolvi il tutto. Piano piano, fai faccia, vedi su ginocchio, tanto io non vado vicino a Bassi, cioè devo andare a recuperare il vostro telefono qua vicino a casa e poi me ne rientro a casa, che sta piovendo, perché non è diretta Maria che scende voi giù, ma se il vostro, vado direttamente domani. Eia, andare. No, ascolta, più che altro, sì, la batteria me la devo recuperare. Adesso aspetta, fammi collegare questo apparecchio, così c'è la luce, poi ti mando una foto, di come ho fatto tutto quanto il mobile con la stazione dentro. Eia. Da Redu, sportello, abitatore, uguale alla cameretta, col coso, i gancetti, col lucchetto, un acciaio, piccolino, ce l'avevo già. E questi bambini non ci mettono le mani? No, non ho preso un gruppo, no, lascio tutto qui dentro, è chiuso, non tocca niente a nessuno. Ma lucchetto metti? Via, c'è lucchetto, mi adesso faccio vedere. Ah, occhio, vabbè. Così, quando per modulare apri. E se sei sicuro che non ti faccia niente. E avanti, bobo. Via, ho trovato il microfono, ma ho trovato lo spinotto, cazzo, sì. Evidentemente l'ho dato qualcuno. Sono gli aveva dato lo spinotto. Sono tutti da quattro quelli che ho io. A parte quello del Polman, che ho prestato a un amico, è 8 questo. Lo spinotto 8, questo va bene per il Kimono, va bene. No, quello del Typhoon, bad, non del Typhoon, del Mobico da 6 o da 8, da 8 mi pare. No, da 6, infatti era un Mobicon quello che stavo cercando io, è da 6. Mobicon 40, 45, quello che comunque è da 6, stavo cercando quello. Fanculo, cazzo. Ah, io l'ho visto, Salvi, bella mossa. E io ho preso inchino quella forza, no? Va bene. Ehi, ehi, di lusso. Già vedo, va bene. Ah, grande, così sei più tranquillo. Dormi bene. Ma no, poi è grande mia, è 90 per 50 di profondità. Una scrivania, capito, a voglia, ci posso lavorare dentro e tutto quanto. Poi quando chiudo so che nessuno, c'ho vittine, vitelle, cosette, non può toccarmi da nessuno. E chi vi so e chi vi rimane? Ma se sai, bambini, poverini, ormai pensavo che sia un gioco, capito? E così, vabbè, dai, ora sei più tranquillo. Poi vedrai se te le cambi tu le modifiche, cioè se te le piazzi tu le modifiche in quello, boh. Io te lo sconsiglio, però farò uno esperto. Il gioco di zene che me lo posso vedere un passaggio, però ci vuole il saldatore giusto, un piastagno, a silenzio, chiuso qua, cameretta, luce toga, aspetta che sto piazzando il lampione, il led, poi te lo faccio vedere. Il lampione? Se vuole il led ce ne sono. E vabbè, giù un mezzo garagino, mi va a salvare, ti mando una foto. Io mi sono fatto un ripiano con tutto, aspetta, con tutta la malata, così, vabbè, vedi c'è un po' di casotto, perché come fanno telefoni, viti e vittine. Allora, così, ok, fanno un montinaggio, pari. Poi c'ho, guarda, i led sotto, guarda, sotto il ripiano, ti mando una foto. Fanno la luce, io lavoro benissimo, vada, addio. Con la striscia di led cinesi, lunga, che c'è scritto più e meno, quanti volt si fa, Luca? Non lo so, infatti ma se lo voglio comprarmi, da bricco, mi costa una cazzata, quella luce, non è una luce, è una lampada, è da, a LED sicuramente, bianca, io la metto lì l'appiccico al centro e questi LED li leggo. E lo fa un bel di luce, fa anche. Vabbè, no, ma già ce l'ho anch'io, non è quello il problema. C'ho due lampade con Leo piccolino, c'ho una lampada con Leo piccolino. E gli ho messo le batterie, solo che non vanno. Quelle che gli ho messo non è che vadino bene. Poi invece l'altra c'ha una ventina di LED, c'ha. Bisogna che gli faccio il collegamento diretto e la metto nel piano, così almeno mi illumina tutto. L'avevamo recuperata la mondezza, una sono riuscita a farla funzionare, l'altra invece c'erano tre cose, un casino era. Allora ho lasciato a perdere per un po', adesso vediamo un po' in seguito la modifico e posso metterci le batterie dentro, ci piace direttamente l'alimentazione diretta. Forse è l'unica. E dato che l'ha trovata lui, cosa devo fare? Davvero? Perché non saranno. A parte che è un casino che sto a sistemarla, cioè. C'erano quelle batterie grosse, nere, e vai a trovare quelle batterie, dove cazzo le trovi? Se vuoi avere anche sistemata, adatta, eccetera, eccetera. Ma invece non si trovano, non c'è niente da fare, quelle batterie lì non vanno bene. Io le ho messo con le batterie normali, e non è che facciamo tanta di quella luce. Normali quale? Quelle da 3,7? No, sono di quelle rettangolari che hanno due posizioni, mi capito, vanno 220, 7 volt e cose del genere, e c'hanno un bel di LED una, la invece l'altra c'ha direttamente tipo neon, capito, e funziona, solo che con quelle batterie che ci ho messo io, da 1200 mAh, non ce la fa, ci vorrebbero le batterie cinesi, quelle grosse. Quelle cose evidentemente sono da 3-4 ampere, hai capito? Cioè sono 6-7. Solo che quelle dopo un po' di tempo quando comincia a caricarle si incendiano. Ho capito, un attimo dopo un po' arrivo subito e vado a recuperare un telefono, dai, mi stavo aspettando. Ehi, ok. Ehi, ci sono anch'io qua, dai, sto collegando questo paletto. Collega. Dai, so che no, che io. Vediamo se c'è qualcuno. Intanto se l'antenna mi sta portando, aspetta un attimo. Adesso ci siamo. Hola. Antone. E gli altri lì? Aspetta che non c'ho più segnale qua. Hai combinato? Antone, prova a fare un passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, hola. Lo smitter mi parte da zero, quando muovo lo sale, tocca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ok, adesso era un tastino, diciamo, schiacciato. Il SRF, cosa è questo? Ma non è che per le stazionarie è questo? Non c'entra niente le stazionarie. Poi c'ho un tastino che lo schiaccio e quando io schiaccio modulo parte da zero e poi dà la modulazione e tu invece non arrivi senza segnale, sto a radio. Ma no, però no, smetto. Torna dall'apparecchio, dal baracchino, c'è un tastino che c'è scritto S/RF. Ma quello è stazionale, già non credo cazzo che non capivo una fanculo. Quello non devi toccarlo, devi lasciare il baracchino così com'è. Normale, poi attacchi il dosmetro. Non è che va attaccare tutti e due il dosmetro, no? Ora passa. Fammi collegare questo faretto. Eia. Sistemato le cose, sì. Come, attore? Se hai sistemato le cose. Stanno le bande fumi. Ecco qua. Adesso un'altra cosa, adesso sì che si vede bene. Cartone. Eia. Mi ho messo questo paretto, adesso avevo questo qua, già va bene, a Puglia, ah, grande. Adesso ti mando una foto su WhatsApp, sembra il faro del dentista. Sì, dottor Z, e ora? Avanti. Quando ti comanda con l'aggeggio quello? Salve. Aspetta un attimo, Antone. Ehi. Ah, provvisoriamente. Ho capito. Ehi Antone, vieni avanti, vieni avanti. Paretto collegato, a posto. Adesso sì che vedo bene. Ti stavo dicendo, hai chiamato a quello per mandarti con l'aggeggio di stamattina. Ma dove, quando ti arriva? No, mi deve chiamare lui. Adesso ti faceva sentire lui, capito, che stava lavorando. Lavora in furgone, lavora, capito? Allora, AMC, ALC. La modulazione qual è? Allora, MC devi girarlo da una parte e l'LC dall'altra. No, la differenza tra AMC e LC. Ma io mi sono dimenticato un poco di cose. Ma te lo sto dicendo, da una parte gira MC e dall'altra parte l'LC, ti aumenta la radio. Però devi farlo con le cuffiette. Un paio di cuffie e un baracchino di avere, te la cuci subito che aumenta la radio. Vabbè, adesso lascio così, là. Adesso mi interessa fare i contatti di questo microfono. Mi detto un attimino. Cazzo, 20 persone sono stati coglioni a Sassari, cazzo, guarda. Hai capito? Sono rifiutati di partecipare al progetto utile alla collettività, pucco. Per venire a sostenere le proposte del comune, i 20 minuti sono stati segnalati a Vinci. I pucco sono stati attivati in collaborazione con la nuova associazione. Settore in questi giorni i servizi sociali stanno procedendo all'inserimento di quelli 45. Adesso voglio attivare il telefono e così non me ne vado a lavorare. Hai capito? La gente non voglia fare un cazzo. Non sai. Settore, ti sto sentendo un po' disturbato. Non so se ho aumentato il QRM, forse come sta piovendo è bassa in lieve l'antenna. No, sta piovendo. Sta anche scusate qualche fulmine c'è cazzo, no, cosa per cazzo c'è qua, vaffanculo per adesso dopo neanche telefono stesso sociale, così almeno non me lo metto in casa, entro a lavorare, mi faccio le mie 8 ore e sono andato un po' in culo. Capace un po' basso, ti sei abbassato, arrivavi meglio prima Antonello, non lo so. Vediamo se c'è qualcuno in ascolto là, per qualche prova a radio, così vedere come stiamo trasmettendo qua, che siamo in condizioni precarie. Avanti se c'è qualcuno che vuole entrare, come una buonasera. Davvero? Buonasera Gino Giù, e allora, com'è? Va bene, sta qui. Antonello il barone. Lo molto picco così a fianco, per carità. Antone, ma la metti a posto questa radio, sì o no? Che sembra un elicottero, un rumore. Ehi, già lo metto a posto, non ti preoccupare, aspetta, cazzo. È che stavo facendo la roba, più che altro. C'ho tutto quanto giù a casa di mia sorella, capito? Alimentatore, tutto ciò. Quindi, perché l'ho passata lì, quello come si deve. Ma aspetta un attimo, che già rientro subito che sto facendo una cosa, veloce. Fai, fai. E beh, sta qui, allora, che è stata questa antenna? E allora, sì, con la Game Master, quella che avevo fatto io però, sto utilizzando. Perché quell'altra non mi funziona, l'ho provata l'altro giorno, un paio di passaggi, Luca mi ha detto che ero saturissimo, sembrava che ero in FM. Ho provato questa mia, attaccata fuori dalla canna da pesca, proprio per provarla, e sembra che sta bene. Mi dica un po' un parere come mi ascolta lì. Io ti ascolto benissimo qua. Il segnale è 9 più 5, va benissimo. Ma che è quella che ti avevo detto io tanto tempo fa, 2 anni fa, che poi l'avevi iniziata e poi ti è andata avanti, eccetera, eccetera, quella? Quella lì l'avevo finita, ma non l'avevo mai provata perché non avevo canna da pesca. Quella lì, se l'ho levata dentro la punta, la giubbiata da giudizio che funzionenti. Se ti usiamo del genere, tu l'altra volta avevi detto, dice dove funziona, boom, boom, un sacco di casino avevi fatto. E invece sta funzionando alla grande anche. Sì, sì, arrivo 9 più 10 a Papatango, a Porto Torre, se ci figuri. Io lo credo, certo che sì, da dove abiti tu poi. Dove sei? Sempre lì, sì, all'angolo dove di tua madre, diciamo, dai. No, dove c'è mamma. Su abito, su in alto. Su in alto, in direzione del Ponte Nuovo. Già è una bella zona qua, vedo tutto quanto, Porto Torres, vedo tutto qua. Fino alla zona di Corso, di come si chiama. Va, lui, la Marina di Sorso, vedo tutto campo visivo, Sintino, la Ginara, tutto canto. Ho capito, dai, meglio su in alto, sì, ho capito, dai. Va benissimo, sapete, va veramente bene, guarda, la radio è ottima, chiara, bella, pulita, forte, e anche il segnale è discreto, non c'è niente da dire, va benissimo. Ma quella che hai detto che ti avevano venduto da poco, quella non funziona, come mai? No, quella che mi avevano costruito, l'ho provata e non va. Mi hanno mandato il vocale audio su WhatsApp e la voce è saturissima e sicuramente c'è qualcosa, non lo so, magari mettendo dentro la canna da pesca l'abbia danneggiata, questo adesso sarà da verificare, perché io adesso provvisoriamente ho la mia attaccata fuori dalla canna da pesca e dentro c'è quell'altra, capito? Io posso provare ora a svitare il piede e attaccarla nell'altra, a vedere se mi sento. Ok, d'accordo. Prova, amico, ti sembra strano, perché la persona che l'ha costruita le sa fare bene, forse hai sbagliato tu qualcosa, non lo so, sai. Comunque questa va bene, tienitela cara, perché va benissimo, non c'è problema. Allora, la radio questa è quella che ho comprato su eBay, questa me l'ho comprata a un'altra su eBay. Tenga presente che ora sto uscendo col microfono originale della President, il suo microfono originale. Adesso sto facendo le attacchi per il microfono da tavolo e vediamo se spinge qualcosina in più di radio. Ok, ma questo è già abbastanza buono, mio, sai, non pensare che questo è veramente una bella radio, veramente. Io ci sento una meraviglia, guarda, ma proprio bene, chiaro, e anche forte, per cui non c'è problema, tu lo sai. Anch'io sto usando sempre la canna da pesca lo stesso, ma io l'ho montata nella parte bassa della casa, non l'ho messa nella parte alta, perché sempre decidendo di metterla dietro nella parte alta della casa, che funzionerebbe anche meglio, ma non l'ho mai fatto, non ho già avuto mai gana, anche perché vedo che già da 3 anni che la sto usando qui davanti, e va benissimo. Allora, lì qua è un segnale 9.15, 9 più 15, radio super 5 stereofonica. Va benissimo, aspetti che attacco il saldatore che così vediamo, però non c'ho batteria 9 volte per il microfono, devo andare a comprarla. Ok, sapete, attento, mi non fare danno adesso, visto che hai fatto un buon lavoro, non fare danno adesso. Va bene, sì, sto uscendo anche basso, mi aspetta che ti dico quante watt sto usando. 5 watt. 5 watt tondi, sapi. 9 più 15 ho mai detto, va benissimo, altro che. Sì, qua 9 più 15. Antonello arriva a 9, Santiago 9, però c'è la radio bassa e non mi sta piacendo la radio Antonello, lo sento basso a livello del radio, un po' di stufato. Segnale è più o meno 9. Ok, sì. Antonello già arrivava qua, solo che aveva quel rumore, forse era qualche vento, ma non lo so, di fermentatore che stava facendo un casino del diavolo, era più forte il rumore della ventola o cosa era che la sua voce, quasi quasi. Va bene, sì, 5 watt tondi, aspetta che fermo un attimo. Sì, ho smesso di parlare un attimo per verificare il vattimo di uscita della lancetta, perché quando parlo c'è l'oscillazione, dunque non potevo sapere con esattezza quante watt. 5 watt tondi ho salvi in questo momento. È positivo, va benissimo, è ottimo qua. Arriva bene. Ok, via un attimo di tempo che adesso sto staccando uno spinotto da un microfono vecchio a 6 punte e quello spinotto lo devo utilizzare per il microfono a tavolo mio che è in origine e lui nasce con 4 punte. Però ho aperto il microfono qua, è vero che ha 6 punte, ma ha sempre 4 fili dentro, quindi in ogni caso è manca fare la posta, quindi del mio microfono a tavolo sono uguali. C'è una calza, una massa, un giallo, un nero, un rosso. Quindi adesso glielo riproduco così uguale come il microfono originale, vediamo un po' se esce. Però devo andare a rimediare una batteria. Ok, vabbè, fai il lavoro senza fretta. Non fare, io a te già ti conosco che tu le cose le vuoi fare in 5 minuti, no, prenditi il tempo senza stare lì a fare le cose col fuoco sotto i piedi, fare piano piano e vedrai che riesci alla grande anche, come hai sempre fatto, insomma, ecco, non ti prendere troppo a fretta, se no già lo sai che poi patisci, poi ti stai anche, ti stufi come è successo altre volte. A proposito dell'antenna, la Mantova in elaborazione, l'ho portata da un tornitore, mi sta facendo un lavoro come ci deve essere fatto e poi proviamo a piantarla, metto un commutatore e vediamo le comparazioni, la differenza tra trasmettere con una Mantova 5 o con una dei Master autocostruita. Ok, quale Mantova è? Quella che avete nel palazzo di tua madre? Positivo, si conferma, però chi era salito a attaccarla ha fatto un grande fastidio, ha fatto solo danni, l'ha tutta danneggiata e adesso la sto spendendo soldi per rimetterla a posto. Ok, e chi è che è salito? Il dentro del palazzo? No, è salito un tecnico e ha voluto anche 50 euro, a mia insaputa papà ha fatto salire un tecnico, l'ha pagato e mi ha semidistrutto l'antenna e ora io me la sto rimettendo a posto. È disgraziata quell'ora, porca miseria. E io ce l'ho sempre, io ho la Mantova Turbo, però non lo sto più usando, me l'avevo smontata, l'ho sistemata da una parte, me l'ho comunque conservata in un angolo sul mansarda e sto usando sempre la canna da pesca, la verità. L'avevo tolta, sapi, solo perché i radiali la notte quando c'era il vento fischiavano, no, e mi dava fastidio durante la notte, allora non l'ho tolta, ma questa è già 3 anni fa e non l'ho tolta e non l'ho più usata. Però è nuova. Intanto nel frattempo mi avevo autocostruito anche un'altra canna da pesca, che come ti ho detto l'altro giorno, come hai fatto per collegarla quella, come ti ho detto io, col tubo grigio? Sì, ho comprato una canna da pesca, però l'ho trovata solo da 7 metri. Poi ho prolungato, c'è un tubo di acqua che prende tutto il primo elemento della canna da pesca, dopodiché dentro la canna da pesca entra un palo di legno che poi entra dentro un tubo di ferro che c'ho nel terrazzo. E il tutto poi prende, il PVC prende sia il tubo di ferro, c'è il tubo di legno dentro e la canna da pesca. È tutto fissato così, non si muove, è innestata, non c'è manco bisogno di bullonarla, non si muove da lì. Sì, quello sì, io lo so. Vediamo una cosa, ma il metallo dove l'hai messo? Dentro la bobina come l'hai messa? Già è fuori dal metallo? Oppure prende qualche pezzo di bobina anche il metallo, cioè questo tubo? No, negativo, la bobina rimane più in su del tubo di ferro di almeno 30-40 centimetri, lontano dal ferro. Bravo, no, perché se no ti stavo dicendo, guarda che così ti perdi un bel po' di segnale, invece no, hai già fatto come ti avevo detto altre volte, dai, hai già compreso, dai. Finalmente mi devi riuscire, bravo, devo farti i complimenti, hai fatto un bel lavoro. Ancora siamo precari, diciamo che devo fare, mi ha prestato lo strumento Antonello, però io sto provando e non riesco a farlo funzionare, ce l'ho collegato ora, ZG modello 500, c'ha il wattmetro e il rosmetro, però io vado a fondo scala con il set, con la manopola, poi schiaccio il tasto rosso SWR, ma non scende il coso che mi deve segnare stazionarie. No, tu devi portare la lancetta, la devi portare a fondo scala centrata all'ultimo numero, nella, sulla vignetta dell'ultimo numero. La devi, tu metti K, no? Metti. E accordi il rosmetro fino a portarla a fondo scala. Dopo che di che avrai portata a fondo scala, allora metti il tasto su WR e premi la portante e ti dai il rosso, quante stazionali hai. L'ho fatto, ma non... Allora, c'è solo quello, allora c'è il tasto, fa 10 watt, poi si è accelerato tantino a fianco, 100 watt, poi si è accelerato tantino, 1 kilowatt, lasciamo perdere quello. C'è 50 e 75 che saranno gli ohm, non lo so, c'è un tantino, primo tantino bianco. Ma sei sicuro che funzioni almeno con lo strumento? Io ne ho quattro, ne ho di rosmetri, pensa un po', e sono tutti quanti funzionanti, eh? Ne ho anche uno per la macchina, piccolino, l'avevo pagato, mi sembra, 20 euro, ma però funziona, e poi ne ho uno professionale che fa tutte le frequenze, sia la 27, sia gli HF, sia il V, sia gli U, tutto fa, tutto quanto. Per cui quando è professionale è di lusso veramente. Poi ne ho altri due, uno a doppio strumento e un altro con uno strumento grande, uno è il TM1000, uno, a due strumenti, anche illuminato. Poi ne ho un altro che non mi ricordo, forse 300, boh, KV300, una cosa del genere. E anche quello, ma funzionano tutti, perché li ho comparati con quello professionale. E devo dire che mi danno lo stesso valore, lo stesso risultato, per cui ho visto che funzionano bene tutti. In un primo momento io avevo qualche dubbio che qualcuno di quelli non funzionasse e avevo preso appunto questo professionale. E poi, considerando i valori di uno e i valori degli altri, ho visto che erano uguali, perciò funzionano tutti bene. Ok. Un attimino, tiro giù, rimango quel ascolto che devo fare due saldature in questo microfono. Va bene, dai, prova. Quando è finito chiamami. Ok. Attento Perivella, attento cuocuomane. Beh, Natali. Mi ricordo per dove ci mi dovrà chiamare Natalino, eh? Capito? Io non sono cuocuomane come lui, capito mi hai? Ciao. Il cuocuomane ce n'è uno e tutti gli altri sono nessuno. E il cuocuomane è Natalino, e boh. Natalino, Perivella, cuocuomane e motobicicletta. Ciao Natino, sto facendo l'ultima saldatura del microfono. Salda. Cazzino che prendeva a dirotto la mazza, che ne rivaria. Natalino, cuocuomane. Esci, c'è un mantella, esci. Adesso cambiamo radio, andiamo con la Mantova un pochetto. Claudio. Vabbè, io devo andare a buscare una batteria nove volte, dai. Datemi 5 minuti che vado a buscare una batteria nove volte. Ciao lunghe, gambe. Salvatore, stai bene, ciao. Vabbè, salve, ci sei. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola, attenzione 10, c'è qualcuno, cambio. Buonasera, arrate per... Ciao, mister Gianni, non ero io comunque. Ciao, ciao giù. Ah, mi ha risposto a chi è e poi non ha risposto. Vabbè. Va bene, riprenderà, cosa vuoi che ti dica? Mi stavo aspettando... A Sasveglio stavo pensando che si è piazzato l'antenna, si è piazzato una cosa, l'antenna autocostruita, come gli avevo detto io, e finalmente l'ha fatta, l'ha piazzata e va bene. Adesso è andata a comprare la batteria perché si deve piazzare il microfono preamplificato. Ma Sasveglio Animalon? Sì. E ti ho dato il termine, già lo sai, sì. Cosa? Già lo so. È un Pisa, lui. Sì, è andato a comprare la batteria, è andato, perché ha un microfono preamplificato, però usciva benissimo anche con il microfono normale, quindi arrivava con una bella radio, bella potente e anche molto chiara, pulita. Ma non aveva la Mantova, Salvidio? Sì, la Mantova ce l'aveva dove abita la madre, no? E mi stava dicendo poco fa che ha chiamato un radiotecnico, o chi è, per svoltare della rotta. E dunque la deve ristrutturare, però si è fatto la canna da pesca e dunque gli avevo dato io le misure tempo fa, no? Però non aveva mai la canna, avevo fatto la parte elettrica, ma poi non aveva la canna da pesca, adesso l'ha messa su e ho visto che funziona abbastanza bene. Capo, adesso dove abita? È la parte alta del monte, molto in alto, molto in alto. Ah, cappa, dai. Quindi in zona, non pensavo che abitasse sempre nei paesi, mi pareva che abitasse in qualche paese tipo Usi, di roba così. No, abitavo ultimamente, abitavo a Via Pietromica, all'angolo di Bottega, lì. Poi adesso si è trasferito su in alto, molto in alto. Cappa, e vabbè, dai. Mi fa piacere che sentiamo altri amici, dai. Beh, certo che sì, è ovvio. Più ce ne sono è meglio, speriamo... che continui anche, perché già lo sai, anche lui non è che c'è mai stato proprio fisso, ogni tanto saccava e si rifaceva di sentire dopo un sacco di tempo. Perché il cuoco, ma è lui sul vicino. Una molla! Università due, molto, molto sveglio. Perché il cuoco, ma è. E il padre diceva che non riusciva a tenere la freno, che brincava la base all'aria. Perché qua come, Ciao Claudio, è bene. Ehi, sempre piovendo sta qua, ma non sta lì, piovendo sta. Qua sì, qua già sta piovendo lo stesso, non credere che sei solo, no, con la pioggia. Anche qua, dove sono io, chi era quell'altro che voleva entrare? Avanti. Vabbè, dai, non la gara, avanti già. Ciao Cocoma. Ciao per il bella. E allora? Adesso bisogna rintanarsi in casa, quando piove non puoi uscire, non puoi fare nulla. E il baracchino ti fa compagnia. Questo l'ho appurato. E quando non puoi uscire accende il baracchino. Vabbè, ci sono anche altre cose, altri passatempi, però il baracchino a me mi è sempre piaciuto. Ma ti dirò, vabbè, io non ce l'ho a portata di mano, però già va bene, dai, tanto siamo a casa. Stare sempre attaccato alla TV non è che ne vale molto la pena, non vuoi mai nulla. Allora mi sono messo qua a farmi due fesserie, due cosette. Nel frattempo entriamo anche in radio, va. Avanti Giulia, buonasera a tutti comunque. Ok, ciao qua. Beh, intanto non c'è fai a casa in questi giorni, non è che puoi stare sempre dalla sedia alla poltrona, dalla poltrona al divano, e così via, no? In qualche maniera bisogna trascorrere il tempo. La televisione non è che ti offre molto, vanno dei programmi che, per carità, ripetuti tante volte, 5.000 volte, poi non è che immagino mai da Grande Fratello io, no? A me mi interessano i programmi, sì, no, non queste cretinate, queste stupidaggini. Avanti Gianni. L'altra notte erano tutti corti, si baciavano uno con l'altro, si sono baciate due donne, e un troiaio che si urlava. L'altra notte ho girato per caso ed erano tutti ubriachi. Quando c'era, come si chiama, Alui. Erano tutti corti. Sì, guarda che quella gente lì, io parlo di tutti questi della televisione, per me trovare una persona seria è come trovare una mosca bianca, guarda, veramente. Incominciando dalle donne e finendo poi dagli uomini, abbasso tutte puttanelle e tutte ghigli, boh, non è possibile veramente, guarda. Vai Claudio. L'ho visto l'altra, perché lo guarda mia moglie, quindi ogni tanto me lo devo subire. Ho visto che c'erano tutti questi qua. Basta che sto abbassando. E c'erano questi personaggi, tutti vedi andati, vedi gotti. Cosa ci vuoi fare, purtroppo? Ce l'ha vi, vabbè, avanti. Ma Cuocuomani erano? Cuocuomani tutti, Perivella, Cuocuomani, tutti così. Ciao. Vabbè già, me ne sono da prima, sto aspettando a San Video. Ciao Giulio, ciao Gianni, ciao Claudio, allora, sono qua che sto smontando un telefono. A proposito di telefono, il mio lo dovrò cambiare perché l'ho mandato già due volte, l'assistente me l'hanno rimandato, lo sai cosa mi succede? Entra praticamente da solo in cortimetro in attesa, da solo, oppure manca la linea di colpo, un casino. Huawei, cos'è quel... qual è? Huawei. Ah, Huawei, prendi Samsung che non sbagli qua. Io questi problemi non ce li ho col Samsung. Lo so, ma il Samsung praticamente costa di più e non fa certe cose che fanno questi telefoni nuovi che sono usciti adesso. Adesso Natalino mi stava dicendo che ce n'è uno buono che si chiama Oppo. Sì, Oppo, Profalo. Tu lo conosci? Sì, ma non mi dice niente. I migliori sono i Samsung in commercio. Ma il mio è Honor e va benissimo, è perfetto, alla grande, ce l'ho già qualche anno. No, questo Giulio è uscito male dalla fabbrica e deve essere una partita perché Natalino se l'ha preso uguale al mio e fa gli stessi difetti. L'ho pagato 279 euro questo telefono, non una lira, no, perché io l'ho preso appena uscito. Capita, una fregatura è stata, vabbè, pazienza. Avanti Claudio. E a me piace tutti uguali i telefoni, a volte funziona, a volte no, non lo so, io ho il mio, che è un Samsung lo stesso, e ce l'ho 6 anni, non ha mai fatto un difetto, vai, l'ho pagato 190 euro mi sembra, 190 euro, una cosa del genere, da, non so se l'ho preso da Troni, no? Non me la metto più, non mi ricordo più. E ce l'ho 6 anni ed è sempre perfetto, funzionante. C'è abbiglio di luce, tanto a me non mi riguarda, guarda che il telefono funzioni, siamo fissati con la bellezza, con quello, con quell'altro, internet ce l'ha, funziona bene, WhatsApp ce l'ha, va bene così, tanto mi pare sono tutti uguali. È interessante che funzioni bene Claudio, è interessante che funzioni bene. Ma questo qua io l'ho cambiato perché l'altro mi aveva già cambiato la batteria Luca e adesso si era riscaricata di nuovo, quindi ho detto stare sempre a cambiare la batteria, mi cambio il telefono direttamente e buonanotte. Buonanotte me ne ho comprato uno di quelli che erano performanti, cioè sono tra i primi che sono questi come cacchio si chiama, te l'ho detto se non mi viene, vabbè, comunque sono cinesi questi telefoni e vanno benissimo perché sono veloci, tutto quanto, telecamera e cose, macchina fotografica sembrano di quelle professionali addirittura, però come il telefono non funziona bene. Vuol dire che è nato il settore. Può succedere già, può succedere. No, vabbè, Luca è materia, è più esperto. Cosa dici tu, Luca? Ma non è fatto di essere più esperti o meno, è che questi telefoni qua, questi Xiaomi, dice che sono, secondo me il Samsung a me non ha mai dato problemi, io ce l'ho 2 anni. Tu pensa che lo compra da seconda mano, vabbè, c'aveva 2 settimane di vita il mio. Io ho l'S10, guarda, una bombetta già, si ricosta, Però, il discorso è come un paio di scarpe, se tu le, io ho preso un paio di scarpe da internet, praticamente pare all'originale, ok? Però non è mai come l'originale, già, non è mai come l'originale. E poi ci sono i telefoni uguali, sono telefoni praticamente, come ti posso dire, un Samsung non originale, capito? Sì, ma sono praticamente, i cinesi in tecnologia sono avanzati più degli altri, cinesi e giapponesi, cinesi di più. I giapponesi adesso un po' hanno scaduto, prima erano i primi, adesso sono in seconda linea, ma i cinesi adesso sono molto, diciamo, aggiornati in certe cose, quindi non penso, se tu porti il telefono in cinese e ti rubazzi andare, commetti un coso, ho visto come rifà andare, come, perché non andavano delle cose, ma l'ha sistemato, è una cosa con che lo si credi come lo fa girare. Sì, già, sono d'accordo, vabbè, li fanno loro, alla fine loro studiano per farli, cioè, per conoscere il sistema, ecco, del telefono. Adesso, per esempio, il mio ha molte funzioni, ma molte. Io praticamente posso caricare con un altro telefono che ha la, come si chiama, la, il change bank, una cosa del genere, così si chiama, se non mi ricordo il nome esatto. Comunque posso caricare un telefono che ha il coso wireless, lo giro, ma tu sopra glielo carico. Ma lo carichi in che se? Ah, glielo carichi di soldi oppure di che cosa? No, di batterie, cosa di soldi. Ah, sì, vabbè. Giulio, riprendi. Adesso dovrò prendermene un altro, perché non è possibile che devo interrompere 5-6 volte la comunicazione, quando sto chiamando un amico, una cosa, ogni volta mi cade la linea. Ma io ne ho una decina, non mi hanno fatto mai difetto. Li ho messi solo da parte di volta in volta per comprare sempre uno migliore. Poi alla fin fine funzionano tutti, per cui ti puoi immaginare. Però ormai non li sto più utilizzando, quelli lì, addirittura ne ho anche uno, il primissimo, quello con l'antennino addirittura, ti puoi immaginare. Però quest'ultimo lo stesso, ce l'avrò 2 anni, mi sembra, 2 anni e mezzo, una cosa del genere, ma funziona benissimo, funziona bene, anche il fatto delle foto o i video, funziona bene tutto, WhatsApp, è di lusso, non c'è problema, guarda, veramente. Lo utilizzo anche tramite Swatch, come si chiama? Smart Swatch, una cosa del genere. Anche con quello lo utilizzo. Va benissimo già, va veramente bene. Senza spendere troppi soldi, mi sembra che avevo pagato 170, se ricordo bene, una cosa del genere. Ma sono spesi bene perché funziona alla grande. Vai Claudio. Ah, riprendo io che cosa deve essere assentato. Il mio anche come batteria è buono perché durano 2 giorni le batterie, io lo uso perché canto, faccio col telefono, quindi lo uso un bel. La batteria mi dura 2 giorni. Sì, beh certo che sì, io lo stesso lo uso moltissimo, penso un po'. Io tante volte guardo anche il giornale, guardo tutte le notizie sportive che mi arrivano, perché ho le cose, le app che mi mandano anche le notizie, ad esempio quando c'è una partita nel corso della giornata, un paio di minuti prima di iniziare mi avvisa, per dire no, e poi voglio sapere tutti i risultati, ce l'ho già tutti pronti, insomma, diciamo che il mio è ben sfruttato come numero di app, però non c'è questo grandissimo consumo, va bene veramente. Vai Luca. Sì, ma infatti, aspetta un attimino. Aspetta, ecco qua. I telefoni purtroppo, tipo Huawei, vedi, sono buoni, dipende da che telefono prendi. Io adesso sto riparando un Asus Zephone, no, della ragazzina. quanto pare la ragazzina autistica gli ha caduto dalle mani disperata, la mamma là mi ha chiamato, ci devo riparare, e niente. Questi telefoni purtroppo sono molto delicati. Chi ha inventato questo telefono già non è scemo. Lo so, ma a me mi è caduto due o tre volte il mio, mai si è rotto il vetro, ma niente, perché ho messo le protezioni, quindi non si è mai rotto, la verità. È nuovo mio Luca, nuovo. Anche il mio è nuovo, non c'è un graffio, non c'è niente. Anche a me mi è caduto due o tre volte già, però c'è la custodia e non è successo niente, per fortuna. Per cui no, è importante, sembra così, ma la custodia è molto importante. Innanzitutto si riserva il quadrante che non si graffia assolutamente, perché è chiuso e dunque quando te lo metti in tasca non rischi niente, perché alle volte nella tasca dove lo metti hai lo che so io, addirittura le chiavi di casa puoi avere, allora te lo può graffiare, invece c'è la custodia, chiudi e non succede niente, perché è calamita anche, no? Tra l'altro la custodia non si apre così, è calamettata, perciò va benissimo veramente. Vediamo se è rientrato con Claudio. Claudio, sei rientrato? Sì, sono qua. Sono tornato un attimino. Cos'è? Se ne ha dato un battito Bonte. Anche il mio è nuovo, nonostante ce l'abbia 6 anni, è nuovo. Mai caduto per terra, mai avuto problemi, di niente. Tutto cappa di roggio. Ma è inevitabile, qualche volta accade sempre, è inevitabile. Adesso sì, adesso ormai è anche caduto, ma io non vorrei che ti cadesse, però a me è capitato due o tre volte che mi è caduto, ma avendo la protezione non gli ha fatto niente. Io non ho di protezione, non c'è niente. È un telefono che funziona, non mi interessa l'estetica, è normale a quella degli altri. C'è WhatsApp, c'è internet, c'ho 50 mega. Va bene così. Cos'è, non me ne ha fatto tanto. Non è quello il problema. Io lo usavo per lavoro e tra l'altro erano aziendali, quindi l'azienda me l'ha lasciato. Sono ancora il numero aziendale, infatti ogni tanto qualcuno mi chiama. Non ha ancora capito che oramai io non esisto più. Va bene. Avanti Luca. Luca non lo prende, lo prendo io. Vorrei vedere anche dopo un paio d'anni, due o tre anni che sei già in pensione, cosa vuole la ditta? Per farti lavorare. Purtroppo è così. No, ma ripeto, il telefonino se è trattato bene già dura sempre, no, non c'è problema. Poi io ne ho diversi tipi, è la verità, ne ho di tanti modelli, addirittura anche quello della buonanima ma di mia madre, quello è proprio per i vecchi, di quelli che con la chiamata di cosa, di soccorso eccetera, ma non lo uso mai. Però io ogni tanto lo ricarico per non rovinare la batteria, come ricarico anche gli altri, è la verità, le ricarico tutti. Tu mi dai, ma non le ricarichi a fare, tanto se non li usi. Infatti non li uso, uso questo che ho sempre, ed è con due schede, dunque ha due numeri tra l'altro, per cui va bene, mi basta, è più che sufficiente. Tu pensa che io tante volte, quando non so cosa fare, magari anche durante la giornata così, prendo, attacco e guardo qualche partita straniera, insomma Gianni, ti dico che lo sfrutto veramente, io lo sfrutto moltissimo, live football è per me è alla portata di ogni momento, in qualsiasi momento magari attacco e vedo una partita di qualsiasi campionato, può essere italiano, può essere spagnolo, può essere francese, eccetera, eccetera, vai già. Io gioco a pallacanestro, canto col telefono, vado su internet, più sfruttati come te lo sfrutto io. E adesso per dire non sto cantando, sta cantando la mia compagna e io non ne ho voglia di cantare, quindi ho acceso il baracchino e ho detto vabbè tu canta, io mi resto un po' alla radio. E cosa canta? Cioè da dove prendere la canzone dal computer? C'è un programma, Claudio, c'è un programma dove ti premiano, dove partecipi, tipo contest, sono, che tu partecipi e fai le gare, eccetera, eccetera. Ah, bellino, si chiama Star Maker. Ah, ho capito, ho capito. E vabbè, ognuno ha le sue passioni. No, io cantare non preferisco, voglio andare a cantare. Posso cantare, non ci rivendi, prendi, però se uno c'è la passione del canto è giusto che lo faccia. Anche Antonio ho visto che si è appassionato al karaoke, ma dove va a cantare lui? L'altro giorno mi ha detto, mi cambio che devo andare a cantare. Ma cos'è, in un coro, cos'è? Un coro l'Antoniano. Ma chi è Antonio Bombo? In questura. Ehi, cos'è? Un coro l'Antoniano l'hanno imbigliato. Ah, un coso, è un circolo. Fanno karaoke, no? Che hanno giù che canto pure, poi ho canto sassarese canto. E per l'italiano è raro che canto. Piace più di sassarese a me. No, non sapevo. Ma lui c'ha l'impianto anche, evidentemente piazza l'impianto suo però. Sì, sì, sì, c'ha l'impianto. C'ha l'impianto, le casse belle. E era per il facla, cosa io va, me ne approfitto finché sto bene. Poi quando diventerò pure un vecchietto me ne sto a casa, tranquillo e sereno. Adesso ne approfitto che sono giovane. Oh mia, cazzo no, per carità, mamma mia. Oggi è sotto, tra due giorni arriva il giorno un po' particolare, ecco. Oh, ah, giorno devi andare là, ho capito. Va bene, dai. Piano piano, già si fa tutto. Vai, Marco giù. Ok, beh, d'altronde, ognuno cerca il modo di trascorrere il tempo nel modo migliore, perché intanto il problema è questo, che Sassari non ti offre niente, non è una città che non offre assolutamente niente, perlomeno per le persone di una certa età. Poi chiaramente se parliamo di giovincelli, quindi vanno a ballare, vanno addirittura nelle discoteche, poi andare lì a imbriagarsi, fanno schifo anche, tra l'altro, tante volte. Però per le persone di una certa età non è che ci sia una grande scelta, veramente. Avanti Gianni. Giocare a carte dei vindiuri. No, non mi è mai piaciuto a me il gioco delle carte, non mi è mai piaciuto il vindiuro, non mi è mai piaciuto il fumo, non mi è mai piaciuto queste cose, a me non mi sono mai piaciute. Io a me mi piace la palestra, lo sport, queste cose qua le seguirei molto volentieri, solo che in questo periodo io certamente non è possibile con questo fatto dei contagi, bisogna stare molto attenti e dunque molto, molto prudenti e riservati. Avanti Luca. Purtroppo a tutti noi che piace il circolo, piace il bar, piace quello. A ognuno di noi piace quello che piace, capito? Va bene, ragazzi, le 6:10, le 6:10. Poi sono andato a prendere un caffè da Mirko. Ah, c'è andato. Io devo uscire alle 8:30. A prendere il pizzo, l'altra volta abbiamo ordinato, hanno sbagliato 4 volte in strada, sono arrivate ghiacciate, allora vado a prendermele io, adesso verso le 7:30 chiamiamo, dalle 8:30 me le faccio trovare già pronte, va bene, avanti già. Magari se non conoscono la zona è quella la ragione, dovresti magari uscire tu e farti vedere. Perché dove le ordini tu, Claudio? Da Oggiano, a Carbona. Da Oggiano a Carbona, ma io già sono fuori zona, mi stanno facendo la cortesia, non ci arrivano in questa zona, capito? Arrivano fino a Serra Secca Alta, praticamente, lì via Pietro Nenni, quella zona lì, e basta. Io sono molto più giù di via Pietro Nenni, molto più in alto di via Pietro Nenni, capito? E quindi c'è peggio. Telefonato, sono dovuto andare a prenderlo, a cercarlo, tra l'altro a Rubuggio, e quindi niente, non le faccio portare più qua, non mi servono, vado io 10 minuti e me le prendo. Vabbè, facevi prima andare tu che fartene arrivare a prendere, vabbè. scappa la gamba. Andare. Luca, allora, che cosa c'è di programma questa settimana di musica? Diciamo che questa settimana non esco già. Non esco perché...